cerca ancora te, silenzioso, trasparente, libero, senza peccato, in balia dei sensi, indormi, veglia. Il letto brucia ancora, sentito il battito, un'altra ora, piano, sento quel vuoto strano, te ne vai e lasci me sul patibolo di uno stato confusionale nel quale scivolo, e so che sarò viandante senza meta e notti solitarie che percorrerò, ti cercherò al di là del possibile, sfidando ogni limite, unico, fragile, tangibile. Ma quanto fa male, lo sai, non ritrovare quanta passione mi dai, incorniciare quadri dipinti da noi, ma poi gela il sangue di due statue di cera, l'altra metà della mela che sognavo intera, spesso